Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Lo sapete che in Italia l'industria dei componenti auto e di tutto ciò che ruota attorno all'auto vale di più della produzione di auto in se stessa? I componenti affini, infatti, in Italia valgono 40 miliardi, mentre la produzione di auto ne vale 30. Del resto, in tutto il mondo, per tutte le marche, la Fiat, la BMW e tutto quello che volete voi, ben il 70% del valore di una macchina viene generato dalla componentistica, e i componentisti italiani, soprattutto gli ingegneri italiani, sono ritenuti i migliori al mondo. Di tutto questo parleremo in trasmissione con Massimo Bellezza della CPM, una multinazionale che fa progettazione, software e ingegnerizzazione di linee di montaggio per auto aeree in tutto il mondo, dalla Boeing, la Lockheed Martin, l'FCA, la Mercedes, perfino la Tesla. Usano la CPM multinazionale con sede a Beinasco per farsi costruire le linee di assemblaggio. È una vera e propria eccellenza. Con lui parleremo anche di come le grandi rivoluzioni tecnologiche, cioè l'internet delle cose, la fabbrica 4.0, cambino la fabbrica di auto. La storia della CPM ha un certo fascino, perché era una boita, che voleva dire carpenteria metallica, fondata dal padre di Bellezza, e poi è diventata una multinazionale high tech con circa 100 milioni di euro di ricavi. Buongiorno, dottor Bellezza. Buongiorno. Allora, voi siete eravate una boita, adesso siete un'azienda ad alta tecnologia. Diciamo che abbiamo seguito l'evoluzione della tecnologia nel mondo. La caratteristica nostra è stata sempre quella di investire in tecnologia. E quindi alla fine oggi avete 150 chilometri tra una cosa e l'altra di linee installate. Praticamente, mettendo insieme le vostre linee, si potrebbe fare un percorso uguale a quello di andare da Torino a Milano. Sì, ma soprattutto assembliamo migliaia di vetture con i nostri sistemi, migliaia di vetture in giro per il mondo, e contribuiamo alla filiera produttiva. Quante vetture assemblate? Migliaia per ogni stabilimento. Lei pensi che una linea delle nostre arriva fino a produrre 66 job per hour, e sono più di 1200 vetture al giorno. Ecco. E avendo costruito parecchi impianti in giro per il mondo, sono decine e decine di migliaia di vetture che vengono prodotte sui nostri impianti. Credo che la sfida per voi sia il fatto che il mercato delle auto cresce soprattutto in Cina e in India, mentre invece in Europa e negli Stati Uniti è in contrazione. Un dato che forse i nostri ascoltatori non ricordano è che il mercato dell'auto e la produzione di veicoli nel mondo cresce. Il luogo comune dice: la gente non va più in macchina, ci sono troppe macchine, e quindi la macchina è in declino, anche perché c'è il car sharing e tutto quanto. Non è vero. Nel 2008 si sono fatte 73 milioni di auto, nel 2015 se ne sono state fatte 88 milioni. Quindi, grazie ai paesi in via di sviluppo, c'è un mercato in crescita per le auto, però questo mercato è soprattutto in Cina e in India più che in Europa. E quindi che cosa significa questo? Significa avere una struttura in grado di poter operare in tutto il mondo. Diciamo che noi lavoriamo moltissimo anche negli Stati Uniti, e in Sud America, in Europa, in Cina. Ma in Cina dove siete presenti? Noi in Cina abbiamo già realizzato, in Cina intanto noi facciamo parte di un gruppo internazionale che è il gruppo DUR, che ha una sede in Cina con più di 1000 dipendenti, e attraverso le loro strutture noi riusciamo a raggiungere i clienti, che naturalmente richiedono il livello di tecnologia che ne fabbrichiamo, perché non tutti i costruttori di automobili richiedono questo tipo di tecnologia. Dipende un po' dal livello di produzione che vogliono raggiungere. Ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea con Massimo Bellezza della CPM, che è una multinazionale che ha sede a Beinasco, vicino a Torino, che fa affascinanti e avveniristiche linee di montaggio di auto e di aerei in tutto il mondo, e porta avanti una tradizione ingegneristica che per l'Italia è uno dei punti di forza. Allora, dottor Bellezza, stavamo parlando del fatto che avete delle linee praticamente ovunque. Sì, ma so- soprattutto in giro per il mondo c'è sempre più richiesta di efficienza, di qualità, e quindi ecco che noi diventiamo interessanti. Non solo, ma noi abbiamo un settore che è il settore della consulenza, che accompagna i clienti nelle decisioni, soprattutto quando questi clienti non sono così strutturati per poterle prendere in autonomia. Ci sono molti players in giro per il mondo in questo momento, e anche nei posti più impensabili, che stanno pensando di costruire fabbriche di automobili o di camion o di trattori, e quindi noi cerchiamo di supportarli in queste loro decisioni, nella definizione dei loro impianti. Ecco, da quanto dice Bellezza nelle sue risposte alle mie domande, secondo me emergono due cose. La prima è che questa azienda ha rinunciato a quello che per molti medi imprenditori è un dogma, cioè il controllo totale del capitale della loro azienda. Hanno venduto il 50% del loro capitale al gruppo tedesco Dürr, che è molto più grande di loro e fa impianti per la verniciatura, quindi qualcosa di non concorrente, e che gli dà risorse e li porta in giro per tutto il mondo, dando loro una base, una sorta di piattaforma. E non è che si sono sentiti in crisi nella ragion d'essere loro per questo. La seconda cosa è che CPM è oggi uno dei principali player mondiali nella parte automobilistica della quarta rivoluzione industriale, quella della fabbrica 4.0, completamente interconnessa, quella dell'internet delle cose. Nella fabbrica automobilistica l'internet delle cose si traduce in una sorta di iper just in time. Il pezzo arriva dai fornitori solo quando l'auto viene prodotta, e dopo sono possibili infiniti livelli di personalizzazione. C'è l'ordine di produzione che parte, il pezzo che arriva direttamente nel tempo reale, e l'auto può essere assemblata secondo un'infinita varietà di desideri del cliente. Si tratta quindi di gestire un'enorme quantità di dati, perché tutto questo, tutti i pezzi e anche tutte le macchine che mettono assieme i pezzi, vengono identificati, monitorati, tracciati, e resta un flusso di dati che corrisponde a questo processo. Viene tracciato, identificato tutto, dall'avvitamento del motore alla scocca fino all'avvitamento di ogni singola vite. Ma torniamo all'analisi del settore per capire il contesto nel quale ci stiamo muovendo, visto che molti ascoltatori probabilmente pensano che il nostro sia un paese ancora di auto, mentre invece è un florido paese di componenti. Ecco una scheda con i numeri principali. Il valore dell'industria made in Italy dei componenti auto ha da tempo superato quello della produzione di auto vere e proprie. La manifattura componentistica italiana vanta un fatturato di 40 miliardi di euro, 2.500 imprese e 165.000 dipendenti. Oggi il 70% del valore di una vettura, di qualsiasi marca, è generato dai suoi componenti. L'industria della componentistica made in Italy è anche un consistente esportatore, per un controvalore di 10,3 miliardi. Il principale cliente sono le case automobilistiche tedesche, per circa 2 miliardi l'anno. Il settore automobilistico italiano è in notevole ripresa ed è alla base dell'incremento del PIL e della produzione industriale. Nei primi 11 mesi del 2015 la produzione italiana di auto è infatti aumentata, rispetto al 2014, del 69%. Questo incremento è un fenomeno di dimensioni mondiali ed è destinato a durare nel tempo. In Europa, il settore ha ripreso a crescere nel 2015, attestandosi a quota 17,9 milioni di veicoli acquistati. Gli analisti di Alix Partners prevedono che si arrivi a 18,4 milioni di vetture nel 2016, raggiungendo poi quota 20 milioni nel 2020. Negli Stati Uniti il mercato è in ripresa dal 2012, quando ha toccato quota 14,5 milioni. Il picco verrà raggiunto nel 2017, quando negli Stati Uniti si venderanno 17,7 milioni di automobili. In tutto il mondo, il numero di auto acquistate è cresciuto di 16 milioni negli ultimi 8 anni, passando dai 69,7 milioni del 2007 agli 87,9 milioni del 2015. Di questi 16 milioni di auto in più, ben 15 sono state vendute in Cina, che sembra destinata ad assorbire la maggior parte del nuovo mercato. Senta, Bellezza, ma ci può spiegare ai nostri ascoltatori che cosa vuol dire davvero Industry 4.0 e che cosa vuol dire per voi? Perché poi alla fine queste cose, internet delle cose, industry 4.0 e quant'altro, sembrano un po' degli slogan a cui ci si abitua e non se ne capisce il significato. Ci spieghi davvero che cosa comporta per un'azienda come la sua? L'industria 4.0 è un settore in cui noi stiamo investendo moltissimo per il futuro. Dopo le prime tre rivoluzioni industriali, questa sarà la quarta e sicuramente sconvolgerà tutto il sistema della filiera produttiva. Sicuramente richiederà investimenti molto dettagliati nei vari settori, soprattutto per quanto riguarda la parte elettronica. Ecco, ma che cosa comporta per chi fa le linee? Cioè i chip piuttosto che i sensori, in quale punto della catena di montaggio vengono inseriti e come cambiano la vita di voi che fate le linee? Questi sensori e questi chip verranno inseriti su tutti i componenti degli impianti, che dovranno diventare sistemi smart, cioè colloquieranno col sistema generale della fabbrica e diranno qual è la loro situazione al momento, quali sono le risorse che possono mettere a disposizione, quando dovranno subire sistemi di tensione in tempo reale. Tutto questo per un'azienda che fa le linee di montaggio per le auto è centrale, perché nel momento in cui tu fai la linea devi tenere presente tutto questo processo, non solo per te, ma per l'intero processo di montaggio dell'auto. E quindi tu sei un fornitore, ma ti coordini anche con gli altri fornitori. Ho detto bene, dottor Bellezza? Sì, non solo, ma riveste anche molta importanza il colloquio tra le macchine e il personale addetto sulla linea, che a questo punto vengono messi a conoscenza di tutta la filiera produttiva. Quindi agiscono in modo centrale a livello di produzione. E questo per voi, in proporzione rispetto al fatturato, che tipo di investimenti comporta? E questo comporta un investimento pari per i prossimi anni al 3% del fatturato, probabilmente per i prossimi 3-4 anni, per riuscire a fare delle configurazioni che possano essere avanzate rispetto a quello che è lo state of the art del momento. Cioè, rispetto ad altri, voi siete quelli che siete investiti di più dalla questione internet delle cose o fabbrica 4.0. Noi siamo assolutamente investiti perché, oltretutto, il campo in cui noi siamo soprattutto specializzati, cioè il montaggio delle vetture vero e proprio, è quello che ha il più grande impatto di manodopera lungo le linee. E quindi noi dobbiamo adattare tutto quello che facciamo anche al fatto che abbiamo una grossa componente di manodopera, che a seconda della dislocazione delle linee cambia sia in qualità e in abitudini. Va detta una cosa importante sulla storia di CPM, e cioè che a un certo punto l'azienda ha potuto diventare così presente in tutto il mondo perché ha abbandonato la produzione industriale diretta. Cioè non è più CPM che costruisce materialmente le linee, i materiali, i componenti. In pratica il suo modello industriale è basato in grande parte sul subappalto, un subappalto che peraltro è tutto italiano, visto che il 70% dei fornitori di CPM è in Italia e in Piemonte, e l'azienda si è trasformata da carpenteria metallica, infatti CPM vuol dire carpenteria metallica, in una società di progettazione e ingegneria di impianti di montaggio per automotive con una fortissima impronta digitale. Ecco, questo discorso qua, più il fatto con il quale ho esordito all'inizio della trasmissione dicendo che il 70% del valore di un'auto viene fatto dall'indotto, mi fa pensare che per gli OEM, per i grandi produttori di auto, costruire autoveicoli non sia più come lo pensavamo noi, ma sia un business di program management, cioè devi fare un programma efficiente per coordinare i vari fornitori, di product management e di finanza, quando poi l'auto vera e propria in gran parte viene fatta dai fornitori, e questo con l'Industry 4.0 sarà via più così nei prossimi anni. E non solo, ma gli stessi fornitori saranno collegati con il produttore di automobili in tempo reale per avere continuamente tutti i dati di produzione e tutte le necessità che il cliente ha. Addirittura si parla di ordini fatti in modo cibernetico, nel senso che quando il produttore ha bisogno di pezzi automaticamente vengono ordinati. Quasi non c'è più un'intermediazione umana. No, direi che si arriverà sicuramente ad un collegamento diretto. Ma sentiamo ora la storia di CPM. La storia di CPM, acronimo di Carpenteria Metallica, è la parabola di un piccolo fornitore dell'indotto Fiat che nel giro di mezzo secolo diventa uno dei protagonisti della filiera automotive mondiale, specializzandosi nell'alta tecnologia. CPM si è evoluta da azienda meccanica a società di progettazione, software, design, tecnologia e consulenza. Prima era fatta da operai, oggi vi lavorano ingegneri ed esperti software. Tutta la parte di produzione meccanica viene delegata a fornitori esterni, al 70% italiani. L'azienda è stata fondata nel 1967 da Gianfranco Bellezza, padre di Massimo, come produttore di impianti di sollevamento in quel di Beinasco, alle porte di Torino. Nel 1985 CPM inizia la produzione di sistemi di trasporto per l'industria automobilistica, per le officine e presse, lastratura, verniciatura e montaggio. Nel 1995 inizia lo studio e la prototipazione di un nuovo impianto di trasporto modulare che prenderà il nome di Twin Trolley Systems, TTS, diventato nel 1996 un brevetto mondiale. Nel 1999 CPM entra a far parte del gruppo tedesco Dürr, un colosso multinazionale specializzato nella costruzione di impianti per la verniciatura delle auto. La fusione si è conclusa con successo, valorizzando inoltre l'italianità del gruppo. CPM è una delle poche aziende del quarto capitalismo ad aver fatto questa scelta, senza preoccuparsi troppo della piena titolarità del capitale. Una rarità. La crisi diventa per CPM un'occasione di crescita attraverso la diversificazione dei clienti, case automobilistiche di tutto il mondo. A partire dal 2010 l'azienda prende il volo. I 15 milioni di fatturato diventano 44 nel 2011, 39 nel 2012, 50 nel 2013, 81 nel 2014 e circa 100 nel 2015. Il prossimo target è di 150 milioni. Le sfide future si chiamano auto elettriche di Tesla, anche se non è ancora del tutto ufficiale, Cina, Brasile e soprattutto fabbrica 4.0 e Internet of Things. Questo è quanto per ora, il tempo è tiranno, siamo costretti a chiudere, arrivederci alla prossima puntata.